storia e la memoria di Dino Pesole. All'1:23 del mattino del 26 aprile del 1986, il reattore numero 4 dell'impianto nucleare di Chernobyl esplose. Il nocciolo cominciò a fondersi e tonnellate di radiazione a disperdersi. La centrale continuò a bruciare per 10 giorni, con conseguenze disastrose per l'ecosistema che si sono protratte per anni. A distanza di 29 anni da quel disastro, che impose una revisione della politica energetica a gran parte dei paesi, restano ancora aperti numerosi interrogativi. Ne parliamo questa sera con l'attore Ulrico Pesce, che lo scorso 14 aprile ha riproposto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma la sua pièce teatrale dal titolo Storie di scorie. Uno spettacolo che intende ricostruire appunto l'avvento dell'industria nucleare italiana, il pericolo che ancora oggi rappresenta e le modalità tecniche del funzionamento di una centrale atomica. Buonasera Ulrico e bentornato. Buonasera, ciao Dino. Allora, Ulrico Pesce ha appena riproposto al Teatro Tor Bella Monaca la sua pièce su Aldo Moro, quindi è appena arrivato qui per noi. Grazie Ulrico, com'è andata la tua pièce su Moro? È andata bene, c'era tanta gente, molta curiosità e sono felice di portare in scena l'opera su Aldo Moro e i ragazzi della scorta. Sì, opera che poi cade esattamente nei pressi dell'anniversario, il 9 maggio del 78, ricordiamolo tutti, il cadavere di Aldo Moro venne ritrovato a Via Caetani a Roma. Bene, allora parliamo di storie di scorie. Vuoi raccontare un po' ai nostri ascoltatori un po' qual è il senso di questa pièce teatrale? Il senso è un po' raccontare il nucleare in Italia, no? Per noi il nucleare, per il senso comune del popolo italiano, il problema del nucleare in Italia è finito nel 1987, quando l'Italia disse no al nucleare. Con il referendum, ricordiamo. Con un referendum, sì. Subito l'anno dopo Chernobyl. Il punto è che noi abbiamo avuto 4 centrali atomiche in funzione per molti anni. Pertanto queste centrali atomiche nei reattori hanno prodotto scorie radioattive. Il problema è, in Italia oggi abbiamo metri cubi e metri cubi di scorie radioattive disseminate in più punti del nostro territorio nazionale. E magari dopo, Dino, se mi permetti, ti faccio proprio un pezzettino dove ricordo, certo, anche che è la pièce teatrale, e che ricordo anche a chi ci ascolta alla radio quali sono i punti cardine dove queste scorie permangono, no? Tuttora è conservate, in base alle indagini della magistratura, in malo modo, cioè con grande pericolosità per le popolazioni che ci vivono attorno. Cito Latina, Caorso, Trino Vercellese, Rotondella e altri posti che magari poi nel pezzo che recito si capisce un po' meglio. E ovviamente lo stato quindi di fatto del nucleare in Italia esiste il problema. Anche se abbiamo detto no al nucleare, abbiamo tante scorie e non sappiamo come smaltirle. Come spesso accade nel nostro paese, ci sono delle disposizioni di legge, addirittura dei referendum, e poi però si fa fatica a capire in che direzione si vada quando quelle norme sono state abolite. Certo. Un po' questo è il punto, certo, non è la chiaro, prima volta chiaro. Peraltro. Però la cosa un po' triste è che è proprio il popolo italiano che non sa, anche perché molte di queste informazioni sono segretate, perché appartengono al Ministero degli Interni, della Difesa. Pertanto noi non sappiamo, per esempio, lo trovo anche buffo, che ogni centrale atomica dismessa o ogni deposito nucleare in Italia, poiché dentro ci sono delle barre radioattive incandescenti, cioè significa le barre dentro il reattore stanno a 2000 gradi di calore, quindi sono rosse come la brace, e sono altamente radioattive. C'è il plutonio, il cesio, il 137, lo stronzio, c'è roba che se te la respiri ti fa venire il cancro, la leucemia in 2 secondi. Bene, e queste barre sono incandescenti e hanno lavorato in Italia nei 4 reattori che l'Italia aveva. Bene, queste barre non si sono raffreddate ancora, hanno un margine di radioattività potentissima, perché una barra di uranio per raffreddarsi ci vogliono 150.000 anni. Da qui il senso e il titolo della pièce, appunto, storie di scorie. Cioè stiamo parlando di scorie nucleari ancora pericolosissime. Del resto a Chernobyl, nel reattore numero 4, quando esplose il 26 aprile, c'erano le barre che avevano lavorato per 2 anni che erano incandescenti, quindi i 250 elementi radioattivi saltarono fuori e camminarono per l'Europa portando radiazioni anche in Italia. Tanto che il miele italiano del 1987 è 5 punti più radioattivo del miele dell'anno precedente, perché le api si erano mangiate sui fiori cose che non si potevano mangiare, evidentemente. Certo. Oh. E allora il problema c'è, esiste, e allora in questi depositi nucleari diciamo che mirano a tenere sotto controllo queste barre, però hanno bisogno di molta acqua queste barre, no? Per raffreddarsi, e poi quindi producono tanta acqua radioattiva, tonnellate e tonnellate, di cui ci si deve liberare in qualche modo. E in ogni deposito nucleare o centrale atomica dismessa in Italia c'è una condotta che scarica effluvi liquidi radioattivi nel mare, nei fiumi, a bassa radioattività. Ma io trovo grottesco che ad aprire i rubinetti sia l'ENEA, Sogin, che è la società che per conto del governo italiano gestisce il nucleare in Italia, ad aprire il rubinetto per cacciare questi liquidi radioattivi sia l'ENEA, e a controllare che livello di radioattività è stata immessa nel mare o nei fiumi è la stessa Enea Sogin. Ecco, questo è il contesto. All'interno di questo contesto si sviluppa il racconto della pièce teatrale, che è un racconto in qualche minuto, possiamo provare a sintetizzarlo a chi non ha avuto la fortuna di ascoltare la pièce dal vivo. Sì, posso per esempio provare. In effetti questo spettacolo parla di un papà che aspetta un figlio, e il figlio ha lavorato in una centrale atomica e pertanto è malato, si è ammalato, insomma, e decidono tutti e due di partecipare a un grande sciopero, cioè al primo sciopero dell'Italia contro il nucleare, che è avvenuto il 23 novembre del 2003, quando il governo decise di impiantare a Scanzano Ionico il deposito unico di scorie nucleari italiane. Pertanto lo spettacolo mira in qualche modo a centrare l'attenzione su Scanzano Ionico. E allora il papà scopre che il figlio è ammalato di cancro e dice: ah, noi a Scanzano Ionico dobbiamo partecipare pure noi alla manifestazione. E partono e vanno a Scanzano Ionico, e papà tirò fuori la fisarmonica e io il tamburo, e cominciammo a suonare in mezzo a 100.000 persone provenienti da tutta l'Italia. Cominciammo a suonare io e papà, e quello che io e mio padre stavamo facendo suonando una tarantella di Matera era parlare. Tutte le cose che noi non ci eravamo potuto dire durante tutta una vita, ora ce le stavamo dicendo con la musica, con una tarantella di Matera. E papà mi diceva: non ti preoccupare, che io sono tuo padre, ti accompagnerò in tutti gli ospedali, sono un analfabeta, tengo la terra sotto le unghie, ma non dlas, Nico, non dlas. E io invece avrei voluto dire a mio padre: papà, il problema in Italia non so solo io, ci sono tanti e tanti depositi nucleari gestiti male. Papà, ci avrei voluto dire con le lacrime agli occhi, ci avrei voluto dire a Latina, a Borgo Sabotino: papà, prima c'è il poligono di tiro e poco più avanti c'è una centrale atomica dismessa, sì, ma con liquidi radioattivi e barre radioattive. A Sessa Urunca, vicino Caserta, c'è un'altra centrale atomica proprio vicino al fiume Garigliano, e l'acqua arriva quando ci sono gli alluvioni proprio dentro la centrale. A Caorso, vicino Piacenza, ci sono 1880 metri cubi di rifiuti radioattivi. A Trino Vercellese, papà, ci avrei voluto dire a mio padre, ci sono barre radioattive per 1600 metri cubi. A Latina ci sono 95 metri cubi di porcherie radioattive. L'Italia è disseminata di porcherie radioattive. Papà, ci avrei voluto raccontare questo a mio padre, che il problema non ero solo io, ma che è tutta l'Italia che disseminate. Addirittura all'università a Monte Cuccolino, a Bologna, c'è un reattore nucleare che produce piccole barre radioattive per l'università. Ci avrei voluto dire che l'Italia è totalmente indifferente, che si crede che è chiuso problema nell'87, invece non è così, e che ci dobbiamo svegliare. Questa è un'anticipazione per i nostri ascoltatori e per chi non l'ha ascoltato. Ma appunto, allora, per chiudere questa parte della nostra conversazione che abbiamo dedicato a storie di scorie, Tu hai notato, Ulderico, che in seguito all'attività che tu hai posto come teatro civile, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il tuo è un teatro impegnato, c'è stato un accrescimento della sensibilità su questi problemi in questi ultimi anni, anche al di là dell'aspetto, se vogliamo, pure importante giuridico, cioè di un referendum che ha deciso delle cose e poi ne sono accadute altre da quello che tu racconti. C'è una sensibilità molto più alta, ma anche da parte del governo, sia quello precedente che quello attuale. Cioè, per esempio, cito sul mio sito internet, che è www.uldericopesce.it, è stata attiva ed è ancora attiva una petizione popolare oggi per bloccare tutte le condotte di scarico a mare e nei fiumi. Non è possibile una cosa simile, e soprattutto che l'Enea butti e che l'Enea controlli. Però è stata attiva la stessa petizione per togliere 800 metri di condotta radioattiva dal mare Ionio e dalla campagna agricola. Sembra incredibile, ma Berlusconi ha stanziato 780.000 euro e la togliemmo, proprio grazie al teatro, e questo mi riempie di felicità. Bene, grazie ancora a Ulderico Pesce, storia di scorie, e quindi abbiamo parlato di questo argomento così importante, così drammatico, se vogliamo, rievocando, partendo dal disastro di Chernobyl del mattino del 26 aprile dell'86. Buonasera e grazie ancora, Ulderico. Grazie, Dino.